culla stanza esercito santo mare fiume paese ventre culla stanza esercito santo mare fiume paese ventre. Vi racconterò storie come ossessioni d'amore. Non so perché gira vota e furia. L'amore entra di qua, l'amore esce di là. Non so perché in tutte quante le mie storie sempre inciampo in questa cosa qua. L'amore che viene, l'amore che va. Forse è che anch'io, fata Morgana, sono stata amante di re, moglie infelice, amante felice, sorella amante, sacerdotessa madre, maga regina, fata delle acque, fata d'acqua, fatta d'acqua. Sono miraggio. Mi chiamano Morgana, Morgan, Morgaine, Morgan, Morgan, Morrigan. Bambina mi chiamano. Ragazza, donna, Maria, Rosa, Antonia, santa, mamma, nonna, nipote, madre. Mi chiamano madre. Io, la più vecchia di 9 sorelle, 9 fate devastate e feconde, guaritrice sono. E le mie sorelle le riporto in vita, da qualunque forma e da qualunque sgarbo, da qualunque malattia, da qualunque violenza. Conta storie, che un po' di storie ve le voglio contare. E canta storie, che un po' di storie ve le voglio cantare. Palazzo fabbrica, oli oli ola, palazzo fabbrica, non vento mai. Vengo a rubarci una villa nuova, venino ventella, oli oli ola, venino ventella, mota la traia. Signori, si comincia, assettatevi. C'era una volta, ma c'è ancora, ancora c'è. Maria, una bambina di 14 anni, portava un vestito Havana quel giorno e una collana Havana di conchiglie. Candore di giglio, odore di mare, forma d'orecchio bagnato dal sale. La ragazzina, bambina, un giorno, col vestito Havana e con la collana, fece per scappare, scappare per scappare, andare, respirare. Stava proprio per partire con l'amica del cuore. Non ne poteva più di famiglia e dolore, di padri padroni, di restrizioni. Ma un bel giorno Maria, che era una bella bruna brunetta, si innamorò di Mario. Si innamorò la ragazzina Maria. E un bel giorno, in una chiesa sconsacrata, senza sacro, senza umano, senza Dio, anche fosse pagano, senza idoli, senza niente, le memorie di nessuna gente. E un bel giorno, in una chiesa sconsacrata, alla ragazzina Maria, Mario, il fidanzato, un bel giorno aveva detto: prostituisciti. Però sta figlioletta aveva una testatura e ci disse no, no, ci disse. E che si può dire di no? No, non si può dire di no. Vietato. Dopo poco tempo che passò, successe che nella doccia trovarono un falò. Nella doccia trovarono un falò. Nell'inferno bruciava Maria. Fuoco le hanno dato. Fuoco le ha dato Mario, il fidanzato. L'innamorato. E che si può dire di no? Rosso. Rosso cremisi porpora. Arancio rosato colore vino. Colore rosa. Colore di cuore, occhi di canna nera, fili di labbra. Riccioli finti di fuoco, luce che diventa matta. Ma in questa luce che matta diventa la nostra sorella, la nostra Maria, la nostra bambina, con un filo di luce, denunciò il suo fidanzato, l'innamorato che la bruciò. E se l'acqua non bastò per la vita di Maria, le sue parole come goccia incidono la pietra e presto o tardi pietra si faranno, pietre diventeranno. Già fuori tempo, con lei a dire, ma mi parsi il lampo, ma il tempo passa, e non ci sono questioni, la meglio vita comincia domani. Tutto l'anno la nord-sud. Nord-sud, nord-sud. Vado e vengo, vado e vengo, vado e vengo. Amore mio, sto arrivando. Bedda, mi dici. Bedda, mi dici, l'amore mio. L'amore mio. Bedda, mi dici, bedda, l'amore mio. L'amore mio. Quest'altra era una forestiera, ragazza. Sapete com'è? Una forestiera è una straniera. Viveva nel nord, non proprio nord-nord, un po' più sud Toscana. Un'estranea, insomma una che non ci appartiene, non è di noi. La forestiera si innamora. Ma com'è? E di mezzo c'è sempre l'amore? E l'amore di mezzo c'è? Ma forse amore è e forse amore non è. E di chi si innamora? Di un bello calabrisello. Studente. Che fa lo studente al nord? Non proprio nord nord, un po' più sud di Toscana. E quanto si innamorano! Ma forse amore è e forse amore non è. Un giorno Rosa, che era il nome della ragazza, ci va a trovare Antonio, che era il nome del ragazzo, lì nel sud, con mamma e papà. E li accolgono il ragazzo con mamma e papà, lì nel sud. Il sud contiene tanto sole, tanto. Però gioia mia, io non ti voglio vedere più. C'è anche tanto sangue qui, disse la ragazza rosa. E beh, ma l'amore si sa com'è. E gioia non ti voglio vedere. E gioia perché? E tesoro non ce la faccio. E tesoro perché? Fra gioia e tesori e amori si sa, ritornano baci e sospiri si sa. Però poi Antonio, suo amato, rimane senza papà, ammazzato. Però poi Antonio, suo amato, anche lui si trova inguaiato, ferito si trova. Il mio ragazzo è malato, ferito, bucato, luparato. Vieni, Antonio caro, curati al nord. Tradisci, Antonio caro, parla, amore mio, parla, amore mio. Sì, Rosa mia, sì, parla, amore mio, te lo giuro, amore mio. E poi... E poi successe una cosa così. Rosa cara, amore mio, ha parlato. Antonio caro, amore mio, ha parlato. Della famiglia dei morti, delle ammazzatine, delle armi, di chi hanno visto, di chi non hanno visto. Della famiglia dei morti, delle ammazzatine, delle armi, di chi hanno visto, di chi non hanno visto. E hanno parlato di chi, di cosa. E poi successe un'altra cosa così. Antonio caro, amore mio, inguaiato e luparato, ha ritrattato. E Rosa voleva dire, no, no, neanche io ho parlato, no dei morti, no delle ammazzatine, no, no, niente armi, no, e che ho visto, no, no, no, niente. E Rosa diceva, scrivo lettere e mi discolpo, e spiego e mi discolpo. Ma non si fa bugiardella, forestiera e bugiardella. Dove vado? Ora dove vado? Dove vado? Chi mi vede, chi mi ha visto? Che faccio? Come faccio? Papà? Pronto? Ecco, torno al nord, arrivo. Le figlie, che bugiarde le figlie. Dal padre non tornò. Non tornò dal padre. E il padre? Aspetta e cerca. Aspetta e cerca. Gira come un palogero. Gira come un colombo. E la madre? Aspetta e ti riaspetta. La madre? Aspetta e ti riaspetta. La madre? 2 anni passano che aspetta e se ne va dopo 2 anni che aspetta nell'aldilà. Il padre aspetta, cerca, aspetta e cerca e aspetta finché un giorno che aspetta, 13 anni che aspetta, apre il giornale. Stava così, sfogliando così. Eccola. Gliel'avevano restituita la figlia. Gliel'aveva restituita il mare. Il mare. Pezzi di lei. Povera lei. Povero lui. Poveri tutti noi. L'amore mio, te voglio bene, l'occhio ti di sereni. Chi è la figlia mia che sempre c'è? Voli fatta la naga, mezzo le ranci. Specchio dell'occhi mia, faccio pedra, tuo padre t'ava fare una pedra. Da lì lo sarbatore al mece sol nobili e le signore. Una mamma, una nonna, una nipote. Ai, ai, ai, ai, marito mio, te ne sei andato. Ai, ai, ai, ai, marito mio, che mi hai lasciato. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai ai ai ai ai ai ai, Don Antonio non la finiva mai. questa storia è così. Un giorno Antonia alla mamma si sposò. Un giorno fece un figlio. Un giorno un altro figlio. Un giorno un altro ancora, insomma tre. Un giorno il marito le morse. Le morse? Sì, le morì. Ai, ai, ai, ai, marito mio, te ne sei andato. Ai, ai, ai, ai, marito mio, che mi hai lasciato. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, donna Antonia, non la finiva mai. Donna Antonia, ma che fate? Donna Antonia, sempre piangete. Donna Antonia, bella siete, non vi disperate. Venite qua, Antonia bella, che bella siete. E la mamma? Mamma di tre figli, vedova di un marito, così di nuovo, paf, si innamorò. E che coraggio! Perché coraggio? Perché non si fa! Non si fa! Antonia, non si fa così! Tu, vedova di un boss, niente amore più, basta, finito, andato! E che non lo sapevi? E che non lo sapevate tutti e due? E che volevate fare? Gli innamoratini, eh? Basta! Adesso ti dico io come che si fa. Prima fanno fuori lui. Peccatore degli peccatori. Disonorato, disonorante. Poi a Tia. Poi tocca a Tia. E che per caso volevi vivere una nuova vita, Antonia? E ti vengono a trovare in tato casa. Tu li conosci e li apri. E gli offri il caffè della mattina. Ah, che bel tuo caffè! La mamma si era appena alzata. La nonna si era appena alzata. La nipote no. La nipote no. Dormiva ancora. Le nipoti. E allora via! Con le pistole! A te, disonorata, vicino al tavolino ti straziano un pochettino. Da in terra ti straziano. E che ci fa se c'è pure tua mamma? Straziano magari Aid. Straziano pure lei, vecchia quant'è. E che ci fa se c'è pure tua nipote? Straziano magari Aid. Ecco come si fa. Così si fa. La mamma si era appena alzata. La nonna si era appena alzata. La nipote no. La nipote no. Dormiva ancora. Le nipoti. Chiavi, chiavi, chiavi. Lei a tafelli provi. L'usurici si marita, cula, coppola di sita. Nesci la cognata, cula, veste raccamata. Nesci lo signori e fa spuntare usuli. Signore, se chiovi, chiovi, c'ha la terra e morti fini, e acqua e mannati, se tamo cocolo per no, perché era matta, santa. Santa si diceva: segui che ti risegui, segui che ti risegui. Un giorno il mio amato uscirà dal carcere. E allora io, zà, me lo acchiappo. E allora io, zà, me lo sposo. Me lo sposo, gioia mia. Santa conobbe il marito futuro a 15 anni. Gli volle bene. Addirittura lo seguiva sempre. Addirittura tutti i processi di lui. Poverazzo. Addirittura ancora prima di sposarsi. Si vede che era matta, santa. Già da allora si vedeva che era matta. Insomma, santa, vivi che ti rivivi. Insomma, sì, ce l'hai fatta, santa. Ti sei sposata l'uomo della tua vita. L'uomo della tua vita. E poi addirittura ti hanno fatto imprenditrice. Ti hanno fatto un sacco di conti in banca. Santa, e chi te lo doveva dire a te? Imprenditrice ricca. E sola. Sola così che ti veniva da piangere. E santa, allora, piangi che ti ripiangi. Forse è meglio ricoverarti un po'. Due pillolette da ingerire per un pianto da consolare. E lo si diceva che era matta, no? Quale sola? Ma le femmine, dico io, hanno risorse. Le mie sorelle, dico io, hanno risorse. Le femmine partoriscono. Custocchi di Vicirito, nuovo di tutto, nuovo di vita, nuovo di sangue, nuovo di porcherie e cattive vite. Santa si fece nuova Margherita, santa si è fatta nuova pure lei. Prese il Vicirito in braccio e disse: io ora ci dico tutto a tutti, ci dico dei conti in banca e del computer, degli ammazzati dei parenti, delle pillole e del dolore e del futuro che si chiama Vicirito e basta. Che non ne posso più. Santa, due giorni fuori di casa, protetta in luoghi protetti, dichiara su fogli. Ma poi torna indietro, santa. No, non lo faccio. Ma poi santa dice sì, lo faccio. Ma poi torna indietro, santa. No, non lo faccio. Ma poi si mette al telefono, chiama il marito e gli dice: pentiti. E il marito dice: no, questa è pazza, poveretta, c'ho le carte mediche, c'è scritto anche sulle carte. Santa gli dice: scordati a me. Il marito dice: no, questa pazza è, non si vuole scordare mia, questa è pazza, poveretta, c'ho le carte mediche, c'è scritto anche sulle carte. E santa si mette al telefono, chiama la sorella. E come che fu? Dopo pensò: torno a casa. Dopo pensò: no, non torno. Pensò: torno, non torno. Certo che pazza sono. Mi ingiuriano, ma è vero. Chi mi dice santa, chi mi dice matta? E santa disse: non firmo proprio. Non dichiaro più. Non dico più niente. No, io torno a casa, torno alla mia bella casa. Giovi, giovi, giovi, e la gatta fa di provi, e l'usurgi si marita, con la cuppola risita, ne c'è la cognata, con la vesta raccamata, e ne c'è lo signori. E fa spuntare un sole. E ci nasce sole sole, per lo santo Salvatore, e da un pugno di nocette a ricreare i picciriti, e con un pugno di denari a ricreare i cristiani, un pugno di fumeli a ricreare i cavalli. Signore, so che vedi che vedi, che la cura è su un monte di siti, la cosa cielo sazia la terra, puntichina di pietà, le nostre lacrime possono in terra, e Dio ne fa la carità. manu manu sa chi bene papà, potta quasi e se ne va, potta meno le nocite, picchio care di civite, potta meno le bazzone, delle macelli figliole, domani e domenica ci tagliamo la testa a minica, e minica non c'è, ce la tagliamo re, corre malato, ci tagliamo la testa sul dato, lo soldato gli alla guarda, tutte par poco lontano. Nacque una bambina bianca, felice e scambettante. Come la vide sua mamma, non le pareva vero. Intravide anche la libertà, bianca, felice e sgambettante. Ma sta bella libertà, e dov'era sta bella libertà? Lontana, uì, lontana. E chi l'ha vista mai, ma veramente? La ragazza a 17 anni aveva fatto la bambina. Quando la bambina cresceva, sorelle sembravano. La musica gli piaceva a tutte e due. La libertà la vedevano assieme. Gli sembrava normale. In fondo era normale. Doveva pure esserlo. Questa ragazza, donna, non è che aveva studiato molto. Non è che era istruita molto. Un taddu paesino picciriddu del meridione mezzogiorno sud. Ma quello che voleva imparare la ragazza era la libertà. Le cose per bene. Per lei e per la piccoletta sgambettante. Questa ragazza, donna, tra madri, sorelle e nonne, tutte nere vestite, foto di Papuzzo morto ammazzato, e chi l'ha conosciuto mai, meno male che c'era la foto, cugini, parenti, e bla, e bla, e bla bla bla, tutti morti così. E non è che ci stava proprio bene. Che bizzarra sta figlioletta. Un poco ribelle sta figlioletta. Un poco troppo. Sognava che forse fuori da Du Paesino qualche cosa di meglio c'era. E allora se ne andò nel settentrione, nel nord. E nel nord trovò uguale. Ammazzatine, arresti, droga, litigi, antidepressivi. È così che ancora con la libertà, sempre lì la disgraziata a farle un cenno per andarle appresso, dopo tutte queste ammazzatine, litigi, droga, antidepressivi, decise così. E disse al compagno così: compagno mio, io ti voglio lasciare. Compagno mio, io voglio parlare. Addio compagno, addio prigione. Mia bella figlia, ci voglio salvare. È così che il compagno le disse così: mia bella compagna, ma chi te lo fa fare? Mia bella compagna, te la farò pagare. Non si deve il compagno disonorare. E fu così che la compagna parlò, parlò, parlò. E fu così che il compagno l'ammazzò, la bruciò, la tagliò. Hanno risorse. E la figlia rimasta parla, riparla. Un fiume in piena. Le hanno ammazzato la mamma, la sua amica, la mamma, quella che la scambiavano per sua sorella, quella che gliel'ha ammazzata il papà, che ne ha fatto pezzi il fidanzato che poi si è innamorato, guarda tu st'amore cos'è. E questa anche mia sorella. E mia sorella e mia figlia vive e parla. E c'ha un coraggio questa sorella, che accusa il padre, che sta protetta, che sta nascosta, che va nei tribunali, che parla, riparla, riparla. Un fiume in piena, eh. Avete visto mio figlio? Avete visto mio figlio? Lo avete visto? Carmelo. Carmelino. Avete visto Carmelo? Qua non risponde mai nessuno. Ha 29 anni. Forse l'avete visto voi. O voi, signora. A voi? A voi non vi è scomparso pure un figlio? Io ero una potenza. Mi rispettavano. Sono quasi stata una boss pure. Capace, decisa. Stavo in mezzo a un sacco e mezzo di criminali. Furba pure. Amica di tutti, proprietà di nessuno. Ero ammirata. Con ruoli importanti, sapevo tutto di tutti. Anche se il mio sogno non era diventare una quasi boss. Il mio sogno era fare l'infermiera. Era d'amore il mio sogno. Fuggire con l'amore. Ma il mio amore, il mio principe colorato di nero, mi insegna dei traffici di affari luridi. E io vivo traffico e sto zitta. Zitta. E che bellezza! Ah, abbia trovato l'amori! L'amori! Ma le femmine, dico io, hanno risorse. Le mie sorelle, dico io, hanno risorse. E Anna fece figli. E i figli si amano. E i figli amano. E Carmelo, suo figlio, si innamorò. Si scattava foto con l'innamorata. Ma non si può fare. Carmelo, che fai, Carmelo? Quella è sposata a un boss. Che fai, Carmelo? Come ti permetti? Carmelo, che fai? E all'innamorata pure glielo dissi. Innamorata, che fai? Che fai? Non sai che non si può fare? Avete visto mio figlio? Avete visto mio figlio? Lo avete visto? Vi chiedo! Lo avete visto? Carmelo. Carmelino. Avete visto Carmelo? A 29 anni. Era innamorato. Questo è l'osso tuo, la clavicola tua, sputata dai cani rabbiosi che ti hanno ammazzato. E adesso io nelle ossa tue incido la verità. E adesso qui dalle ossa tue sgorgano parole mie. E quest'osso diventa inchiostro. Carta diventa, parole parlate, crimini svelati, uomini imprigionati, nomi e cognomi. Ecco, il tuo osso di Dio. Figlio, figlio mio. Ai amore, vai le femmine hanno risorse e le mie figlie che restano e parlano, le mie sorelle diventano cataratte di parole, fermano i morti, acchiappano la vita, parlano, riparlano, fiumi in piena sono, che vanno al mare, e il mare contiene miraggi, miraggi di fate, pozzo scandaloso. Io, Morgana, Morgana e le mie sorelle lo usiamo per fare cadere nemici, ingannare uomini di conquista barbari con le loro orde. Io e le mie sorelle, sorelle, creiamo miraggi, miraggi, luoghi nuovi, verità che li affonda, alleviamo case, famiglie, case, città e campagne profumate, ma di sotto gli occhi gliele portiamo via, i barbari cadono nell'acqua, stupidi, violenti, creiamo miraggi e ce li buttiamo dentro. Oggi, se c'è qualcosa che non contiene veleno, è l'immagine che risale su, come cibo indigerito, di una donna, più un'altra donna, più un'altra donna, più un'altra donna, più un'altra donna, più un'altra donna, più un'altra donna. Le fate sono esseri splendenti. La bambina Maria, la ragazza Rosa, Antonia, la santa, la mamma, la nonna, la nipote, la madre, la bambina Maria, la ragazza Rosa, Antonia, santa, la mamma, la nonna, la nipote, la madre,